se non so trovare le parole chiare per poterle dire che son perso senza lei, anche se non so perché. Scriverò parole che tu potrai dire e che se vuoi puoi cantare anche se sei stonato e vedrai che lei capirà. Puoi dirle che l'ami, così semplicemente, che in fondo le parole non servono, e che l'amore mio le farà compagnia tutta la vita, per la vita, anche se andrà via. Non fermar la voce, non fermare il canto. E se sarai anche per poco felice, sarò felice anch'io per te. Se sarai anche per poco felice, sarò felice anch'io insieme a te.